Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:10, buona domenica da Stefano Gallarini. Domenica cominciata per me con una bella discussione con Pietro Lacorte, che saluto e che è in regia in questo momento, perché oggi parliamo di futuro. Perché parliamo di futuro? Il futuro che verrà, ma anche il futuro che vorremmo, perché in molte città importanti sono cambiati i sindaci, si andrà a votare per il referendum e quindi così c'è sempre questa voglia di cambiare in generale. Non sto facendo assolutamente un discorso politico, non me ne vogliate, non è questo il discorso. Il fatto è che quando si cambia, quando cambia qualcosa, si ha sempre la speranza che tutto vada meglio, no? Succede anche nella nostra vita quotidiana, non so, si cambia per esempio una casa, si cambia un vestito, si cambia una persona, speriamo di no, e che l'amore vada sempre bene per tutti, però voglio dire, succede, quando si cambia si spera sempre in qualcosa di meglio, poi magari non è così, però questo è quello che si vuole. Allora la mia domanda di oggi è: che cosa vorreste? Come vorreste il vostro futuro? Che cosa fate anche per migliorare questo futuro che volete in un certo modo? Quindi oggi più che mai voglio sentirvi attivi, se volete, con i vostri messaggi, come sempre, o su Facebook. Vi ricordo che abbiamo la pagina su Facebook dedicata al riposo del guerriero. Il numero invece per gli SMS 349-238-6666. Poi comunque alle 11:30 giocheremo sempre con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri cartacei o elettronici su libreriarizzoli.it. Dovrete rispondere, risolvere il mistero ascoltando gli indizi che mano a mano vi daremo. Anzi, lo facciamo subito, vi diamo il primo indizio della giornata. Pietro non lo sa, c'è un indizio che è riascolto numero uno, eccolo qui, lo facciamo ascoltare. Questo è l'indizio di questa settimana, il primo. Eccolo qua, questo è il primo indizio, quindi se riuscite a rispondere solo ascoltando questo sono 1000 euro, poi più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. La risposta può essere o una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente famoso. Siccome oggi parliamo appunto di futuro che verrà, mi è venuto in mente una canzone di molto tempo fa che parlava proprio di un futuro che avrebbe dovuto essere. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Beh, non potevo certo tagliare una canzone così bella, un testo straordinario. Devo dire che forse uno degli album migliori che Lucio Dalla abbia mai scritto era il 1979. Questo ovviamente era l'anno che verrà, che introduce proprio l'argomento di questo futuro che vorreste, come lo vedete, così come lo sperate. Soprattutto tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Paul Claudel diceva: quando l'uomo tenta di immaginare il paradiso in terra, il risultato immediato è un molto rispettabile inferno. Pietro Migliorini, buona giornata. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dalla prefazione del libro di Pietro Migliorini ho preso questa frase. Il libro si intitola Il futuro che verrà, parole, riflessioni, idee nuove per il XXI secolo. Allora, l'editore è Booktime Dizionari, per cui ci troviamo di fronte a un dizionario. Pietro è diviso proprio lettera per lettera, hai preso delle parole e descritte una per una. Sì. Praticamente questo libro avrebbe dovuto essere, anzi è, se vogliamo, il seguito di alcuni altri volumi, Dizionario della Nuova Europa e Dizionario del XX secolo, e con questo, come dire, volevo denunciare con le prove i mali provocati dall'incapacità di certi governi, non solo in Italia ma anche nel mondo, però indicare anche una via più credibile per la rinascita del pianeta, per una maggiore libertà dei popoli, per un miglioramento, insomma, delle condizioni di vita di tutti, ecco. Ecco, infatti diciamo che è un libro che racconta semplicemente, vi spiega cosa sta succedendo per quanto riguarda moltissimi argomenti che spaziano dalla salute internazionale alla fame, ovviamente, e ovviamente certo. Grandi temi, come sono tutti grandi temi, ecco, certo. Innanzitutto le parole riguardano sempre grandi temi. Ovviamente abbiamo anche grandi temi come l'acqua, al sì. quale hai dedicato tantissimo spazio, all'energia, che sono credo sì. i temi più attuali in questo momento, semplicemente perché poi avremo il referendum, sì. Però sono sempre attuali. Ecco. Sì, sicuramente, per esempio, l'acqua. Io penso che nel passato pochissime persone si siano preoccupate della quantità di acqua dolce esistente, quindi molto spesso abbiamo non solo consumato in eccesso, ma non ci siamo preoccupati, per esempio, di sapere se ci sono altre persone che non possono utilizzare l'acqua. E nel mondo, soprattutto nell'Africa, ci sono circa 2 miliardi di persone che non hanno, diciamo, il rubinetto in casa o devono fare decine di chilometri per andare a prendere un secchio d'acqua. E anche qui, quindi, bisogna utilizzare al meglio l'acqua, ma cercare anche nuove fonti, come dire, alternative, si dice, no? E questo si collega un po' alla ricerca scientifica, cioè come rendere potabile l'acqua, come non consumarla in eccesso. Pensiamo al lago Daral, che è situato tra l'Uzbekistan e il Turkmenistan e il Kazakistan, che praticamente da questo lago, che era circa 70.000 km quadrati, si è ridotto a 20.000 km quadrati, perché è stato sfruttato al massimo per innaffiare, diciamo, enormi estensioni di cotone. Ecco, questo è uno dei temi, cioè non sprecare l'acqua. Ecco, è anche incredibile, leggendo il tuo libro, è anche incredibile come emerga il fatto che comunque un filo tiri l'altro, davvero, cioè è costantemente causa-effetto tutto, sì. Perché è vero che da una parte, per esempio, si spreca, dall'altra parte però è anche vero che si usa in un certo modo per riequilibrare magari l'irrigazione, per esempio, come sì. in questo caso, e sì. quindi è difficile anche prendere una posizione, anche se è giustissimo sapere come stanno le cose. Sì, bisognerebbe innanzitutto, io penso, la conoscenza, cioè io ritengo che molti di noi non conoscano esattamente come dire, come vive il pianeta, quindi anche per tutelare l'ambiente, per esempio, secondo me è necessario conoscere, non dico conoscere scientificamente tutte le piante, tutti gli animali, ci mancherebbe altro. Però capire come vive il pianeta, l'ambiente, per non poterlo, o perlomeno poter offenderlo il meno possibile, e quindi, che poi di conseguenza è un vantaggio anche per noi, cioè vivere meglio, insomma. Certo. Questo è un po' legato anche al controllo dei consumi, è legato anche un po' alla demografia, cioè all'enorme quantità di persone che vivono in questo pianeta. Ecco. Pensiamo che la bambina che lei che si vede, che tutti possono vedere eventualmente in copertina del libro, sì. ha 4 anni. Fra 30 anni, quando avrà 30 anni questa bambina, nel mondo saremo grosso modo 10 miliardi di persone, adesso siamo 7 miliardi e qualcosa. E beh, ovviamente dobbiamo imporci proprio un'educazione e trovare nell'ambito, io penso, della globalizzazione, trovare dei mezzi per poter sfruttare al massimo non solo le risorse del pianeta, ma cercare anche di frenare il moltiplicarsi, diciamo, della popolazione. Ecco Pietro, il fatto è questo, che noi molto spesso viviamo nel nostro microcosmo, no? Per cui la nostra quotidianità per noi è la verità, e non solo, ma poi basiamo tutto proprio sulla nostra quotidianità, senza pensare minimamente a quello che succede intorno a noi. Le attività quotidiane, parliamo dell'acqua per esempio, il fatto di consumarla male, perché si lavano i denti, si lascia scorrere il rubinetto, è una banalità, lo so, però lo facciamo tutti i giorni, certo. Può davvero servire oppure no? Diciamo, a titolo personale quotidiano, in minima parte, non c'è dubbio, però però dato che siamo 5 miliardi che utilizzano il rubinetto tutti i giorni, o la doccia o il lavastoviglie, diciamo, quelli che sono gli strumenti della quotidianità, appunto, si può sicuramente intervenire per migliorare la condizione, però ritengo in minima parte, perché se pensiamo alla potenzialità dell'uso dell'acqua dolce, che usata o consumata, diciamo giustamente, potrebbe soddisfare le esigenze di 20 miliardi di persone, significa, soprattutto per quanto riguarda l'Africa, quindi non soltanto certe regioni della Cina o del Sud America, ma per l'Africa, che è un po' il simbolo della arretratezza dei popoli, si potrebbe, attraverso la ricerca scientifica, attraverso un intervento a livello internazionale più incisivo, poter sfruttare maggiormente l'acqua, che bisogna cercarla, ma comunque c'è, perché il 3% dell'acqua presente sulla Terra è dolce, potenzialmente potabile, e quindi si potrebbe fare di più, come diceva la canzone. Certo, insomma. Ecco, Pietro, chiaramente sono macrosistemi, bisogna intervenire su quelli. Poi noi nel nostro piccolo possiamo, come dici tu, conoscere, che credo che sia la cosa assolutamente più importante, anche per prendere delle posizioni. Ovviamente un altro capitolo fondamentale è l'energia. Non ti chiedo di prendere una posizione, so benissimo che ce l'hai, ovviamente. Però volevo capire dove stiamo andando a finire proprio dal punto di vista dell'energia. Cosa ci aspetta il futuro in questo senso, secondo il tuo dizionario? Naturalmente bisogna rispettare, cioè sempre per riferirci al rispetto che abbiamo dell'ambiente, bisogna innanzitutto non avere nessuna remora di fronte, come dire, a certe scoperte, cioè se Prometeo non avesse rubato il fuoco e l'avesse dato agli uomini, cioè quando l'ha fatto non si è chiesto ma se questo farà tanti incendi quante vittime ci saranno, e noi sappiamo che tra gli incendi, diciamo, avvenuti negli ultimi 3.000 anni ci sono stati milioni di morti, e questo però il fuoco è anche molto utile per il benessere dell'uomo. Lo stesso vale per le energie che noi utilizziamo per vivere meglio, dall'energia nucleare, molti hanno temuto naturalmente solo a pronunciare la parola, diciamo. Ci sono stati naturalmente diversi incidenti molto gravi, e si potrebbe dire che siamo in arretrato, cioè non abbiamo studiato con maggiore attenzione gli sviluppi e le conseguenze dell'utilizzo di questa fonte energetica, che è una cosa molto delicata. E io non credo, cioè credo si possa studiare molto di più, approfondire molto di più le conseguenze, quindi tutte quelle che sono i problemi collegati alle scorie, e quindi capire com'è possibile eliminarle, ma contemporaneamente però allargare molto gli interventi per quanto riguarda le energie alternative. Certo, è un percorso, diciamo, di tutte le energie possibili. Tu non escludi niente. Va studiata molto bene. Cioè, tu non escludi niente a priori, dici bisogna conoscere e approfondire la ricerca. Assolutamente. Bisogna allargare la ricerca. Perché comunque credo che il nostro futuro abbia bisogno di tutte le energie possibili. Questo però è un'opinione personale. Poi adesso non voglio fare una puntata su questo, perché non è il compito. Sono molto rispettoso delle assolutamente, di quelle che sono sì. Le posizioni, sia per l'energia nucleare sia per gli OGM, perché capisco che ci sono anche problemi culturali che bisogna risolvere, insomma, e soprattutto comunque bisogna approfondire e studiare molto ciò che per esempio in Italia non è stato fatto, il problema nucleare con le sue conseguenze. Ecco, io voglio chiudere con te, Pietro, con l'ultima parola del dizionario, che non è una fonte di energia, ma è un personaggio, che è Zapata. Tu hai voluto chiudere con lui perché? Perché? È un po' strana. Dimmi. No, dico, perché è chiuso con Zapata? È vero che comincia con la Z e quindi è l'ultima lettera, ma... Sì, no, ma voleva essere... Io penso che... ma questo era un po'... non un gioco, diciamo, è una verità. Io ritengo che alcuni rivoluzionari, chiamiamoli così, Ho Chi Minh, Che Guevara e molti altri che non sto qui a fare l'elenco, siano stati sopravvalutati. E però poi la storia ha, come dire... ha limitato, ha cancellato certa euforia, insomma, nei confronti di queste persone. Zapata, che è un povero contadino che un secolo più fa, diciamo, vita, ha dato veramente l'esempio per il futuro del suo paese e del suo popolo di come si deve combattere, come si debbono combattere le ingiustizie, non sempre viene diciamo, ricordato. Diciamo che proprio in questi anni, dove abbiamo seguito anche l'evoluzione di certi avvenimenti nel Chiapas, cioè in una regione del Messico, Zapata non solo dai contadini ma anche dai generali viene considerato, diciamo, il portabandiera del cambiamento nel Messico. E allora mi sembrava giusto, diciamo, dedicargli qualche riga, proprio perché rappresenta il portabandiera della rivoluzione, ma nel senso del cambiamento positivo per tutti. Senti, l'ultima parola, proprio l'ultima parola, ma nel tuo futuro vedrai il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in quello che hai visto? Io penso che bisogna essere ottimisti, ma non ottimisti di maniera, diciamo. Bisogna impegnarci e tenere alta la speranza, perché ci sono buoni motivi per poter migliorare le condizioni di tutti. Anche tanti numeri ormai lo dimostrano per quanto riguarda l'atteggiamento che le persone stanno cominciando ad avere nel mondo. Grazie Pietro Migliorini, grazie per il tuo libro. Ricordo, il titolo è questo: Il futuro che verrà. Parole, riflessioni, idee nuove per il XXI secolo, edito da Book Time. Grazie ancora, buona domenica Pietro. Grazie a voi altrettanto, arrivederci. Tra pochissimo parleremo, è vero, di futuro e di tecnologia, ma soprattutto di passato, perché a volte le grandi tecnologie che tanto ci facevano sperare per il futuro sono state dimenticate. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando del futuro che verrà, del futuro che vorreste venisse in qualche modo. Sono arrivati molti messaggi, anche molto lunghi, e io ne ho preso un pezzettino di uno di questi messaggi. Dice: nei condomini la gente si dovrà salutare, perché è vero che forse bisogna cominciare anche dal fatto di considerarsi, no? Perché un po' manca questo. Nicola Nosengo, buona domenica. Buona domenica, buongiorno a tutti. Ecco, allora, Nicola Nosengo è l'autore, fra l'altro, di questo libro, si intitola L'estinzione dei tecnosauri, perché per parlare di futuro bisogna anche parlare di passato, altrimenti non ce la possiamo fare. Quindi bisogna tornare un po' indietro e capire come a volte quello che era considerato futuro, nel passato appunto, poi futuro non è stato, Nicola. Assolutamente, diciamo, l'idea del libro è un po' che quando parliamo di tecnologia le definizioni di vecchio e di nuovo siano molto più complicate di quanto sembrano a prima vista, e che per capire effettivamente come funzioni l'innovazione tecnologica, questa cosa che ci circonda sempre più veloce e che ci appassiona così tanto, sia ancora più importante che studiare le tecnologie nuove che man mano vediamo, sia andare a studiare quelle che sono scomparse e chiedersi il perché. Proprio come succede in biologia, in cui una parte fondamentale dello studio dell'evoluzione è lo studio dei fossili, delle specie che si sono estinte. Ecco Nicola, cos'è che è sicuramente scomparso, per esempio? Per esempio è sicuramente scomparsa una tecnologia come la posta pneumatica, una tecnologia una tecnologia di distribuzione della corrispondenza personale, di pacchi o lettere, che tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX era, per usare una formula breve ma chiara, la internet del tempo. Ecco, funzionava proprio con una serie di proiettili che venivano dei contenitori, in poche parole. La si può ancora vedere in situazioni molto più limitate, nei supermercati, in alcuni ospedali, ma appunto in quel periodo, diciamo fino più o meno agli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, in molte città europee e americane si estendeva sotto, i tubi pneumatici si estendevano sotto l'intero centro della città e servivano a smistare molto più rapidamente la corrispondenza, che, se ci pensate, è un problema tecnologico tuttora irrisolto, nel senso che noi abbiamo comunicazione in tempo reale per quasi tutto, ma se dobbiamo spedire fisicamente un pacco siamo ancora affidati ai mezzi di trasporto tradizionali. Ci vorrebbe il teletrasporto, ma forse adesso è un po' presto ancora. È un po' presto, sì. Nicola, per quanto riguarda proprio le comunicazioni, c'è però, ad esempio, qualcosa che non riesce a sparire, cioè ancora oggi, ed è il fax. Sì, il fax è una storia straordinaria. Parlavo prima della difficoltà di definire vecchio e nuovo. Sì. Il fax è una tecnologia che la maggior parte di noi associa agli anni 70-80 del secolo scorso, no? Quando era improvvisamente diventato il nuovo medium alla page. In realtà, tecnicamente parlando, il fax è un'invenzione dell'Ottocento, più o meno contemporanea al telefono, quindi è una tecnologia antichissima che per una lunga e complicata serie di problemi non emerge alla superficie fino appunto più o meno agli anni 80. Dopodiché oggi è, come dici giustamente tu, palesemente superato tecnicamente da altre cose, a cominciare dalla posta elettronica, che potenzialmente lo sostituisce in tutto, ma per qualche motivo, soprattutto per rigidità della burocrazia, a volte la necessità di avere una firma su un documento. Beh, infatti si sente molto più spesso mi mandi un fax piuttosto che mi spedisca un'email, decisamente. Esatto, quando appunto tecnicamente la sostituzione è banale, basterebbe scannerizzare e inviare, però le tecnologie hanno una loro inerzia fatta in parte degli aspetti tecnologici, economici, gli investimenti sostenuti, ma fatta molto anche dalle abitudini e le pigrizie delle persone, in questo caso per esempio magari la pigrizia di informarsi e attrezzarsi su come funzioni la posta elettronica certificata, che potrebbe sostituire la firma su un fax, e invece la diciamo confidenza con questo medium appunto vecchio, superato, inefficiente, che però continuiamo a tenerci più o meno in tutti gli uffici. Nicola, il futuro della tecnologia come sarà invece a questo punto? Il futuro della tecnologia è per definizione molto difficile da prevedere, questo è un po' uno dei Ebbene, l'abbiamo visto con i tablet, che non esistevano fino all'anno scorso e poi adesso... Esattamente, quello che si può dire è che in alcuni campi, e quello della comunicazione e dell'informazione è quasi banale dirlo, è per eccellenza questo campo, la competizione per la sopravvivenza, per continuare con la metafora biologica, è sempre più feroce. Quello che si può dire è che sicuramente nuove tecnologie, nuove soluzioni nasceranno a ritmo sempre più forte e la maggior parte di loro si estingueranno ferocemente, come è già successo a molti standard di videoregistrazione, solo per fare un esempio, a sistemi operativi per computer, a sistemi di memorie per computer, eccetera. Dopodiché naturalmente la grande domanda che determinerà il futuro della tecnologia è, e involontariamente mi riaggancio all'ultimo discorso che stavate facendo in trasmissione, sì, sarà quale fonte di energia sarà quella decisiva e predominante nei decenni successivi. Certo. Nel senso, è evidente che l'ecosistema tecnologico in cui viviamo oggi è in qualche modo basato sui combustibili fossili, che sono stati e sono finora la nostra principale fonte di energia. Quando cambierà quello, cambierà tutto. Sicuramente. Nicola, e l'ultima domanda che ti faccio invece riguarda gli standard. Che opinione hai? E così, tu come ti muovi verso gli standard? Io per esempio li amo molto, perché arrivo da un'epoca in cui soltanto quando facevo il direttore di diverse riviste e mi arrivavano gli articoli scritti con tanti sistemi operativi diversi, io dovevo correggerli uno per uno mettendo a tutte le accentazioni, perché ognuno seguiva un sistema diverso, certo, per accentare le lettere, ed era una fatica immane. Oggi invece, grazie al cielo, da qualunque computer ti arrivi, francamente riesci a leggere e non dover cambiare assolutamente nulla, e quindi sono un po' per gli standard, però non so, ognuno la vede a suo modo, volevo capire la tua visione di questo. Ma tendenzialmente sono d'accordo con te, dopodiché c'è una battuta che circola molto tra gli esperti di tecnologia, che cito anche nel libro, che è I love standards, there are so many of them, amo gli standard, ce ne sono così tanti, che è ovviamente una contraddizione. È un ossimoro, certo, chiaro. Sono pienamente d'accordo con te che il mondo tecnologico più desiderabile sia basato su meno standard possibili, più condivisi, ma d'altronde c'è una potente forza di mercato che rema nell'altro verso, cioè il fatto che per una azienda, per un produttore, imporre il proprio standard significa guadagnare, chiaro, significa, certo, esatto, assicurarsi guadagni per decenni, e quindi finché è possibile farlo, i grandi produttori, in questo caso per esempio di tecnologie di comunicazione, tenteranno di proporre il proprio standard e si batteranno fanno fino all'ultimo momento possibile per imporlo. Quando poi emerge un vincitore chiaro, di solito gli altri si ritirano in buon ordine. Come è successo con i Blu-ray, gli HD-DVD, ben poco sono durati gli HD-DVD a un certo punto, malgrado lo standard fosse straordinario, comunque sia, non è detto poi che il vincente sia migliore. Questo, appena si è capito che uno aveva vinto, gli altri si sono ritirati. Hanno detto facciamo bene a stare a casa, e adeguarci anche noi. L'estinzione dei tecnosauri, Nicola Nosengo, storia di tecnologie che non ce l'hanno fatta. Grazie Nicola, buona giornata, buona domenica. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao. Io ricordo un film del 60, si intitolava Time Machine in inglese, ma in italiano aveva un altro titolo, come sempre. In quegli anni si cambiavano tutti i titoli, non so perché. L'uomo che visse nel futuro, così si intitolava in italiano. La storia era questa: un inventore che aveva scoperto la macchina del tempo e viaggiava proprio nel tempo. È molto divertente. Se andate a vederlo in questi giorni, nei prossimi giorni, se non l'avete mai visto, magari vi sarà capitato, l'ho andato tante volte in televisione. È divertente il fatto di come ci si immaginasse negli 60, ci si immaginassero gli anni 80, gli anni 90, gli anni 2000. La cosa che mi colpì molto è il fatto che nel 2000 si immaginava un popolo che non aveva considerazione per se stesso, cioè tutti bellissimi, molto curati, tutti fisici, atletici, tutti biondi con gli occhi azzurri, però incuranti l'uno dell'altro. La scena è di un uomo che sta per annegare in un fiume e nessuno va a salvarlo, ma forse stiamo andando in quella direzione. Spero che la direzione invece cambi in questo senso. Noi come Radio 24 abbiamo un programma nuovo che è partito ieri e che racconta di futuro e di passato. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro, di Maurizio Melis. Eccolo qui Maurizio Melis, ciao Maurizio. Ciao Stefano. Allora, nel tuo programma si parla di quello che è la fantascienza ha immaginato e che poi non è mai successo, ma anche del contrario, di ciò che la fantascienza ha immaginato e che poi si è rivelato essere vero. Beh sì, insomma, la fantascienza ha preconizzato, si è divertita negli anni, nei decenni, insomma, ormai a immaginare le tecnologie del futuro. Alcune di queste, insomma, sono del tutto irrealistiche, ci siamo un po' crogiolati, diciamo così, nell'impossibile. D'altra parte questo è un esercizio che facciamo da sempre. Io ho sempre pensato che in qualche modo la fantascienza sia la prosecuzione dell'epica anche dei tempi greci, insomma della cultura greca, insomma l'uomo davanti a forze sovrumane con la possibilità di maneggiare poteri sovrumani, e la domanda è sempre poi che uso faremo di questo potere una volta che ce l'avremo avuto. Certo, nel film a cui facevi riferimento questo potere forse non è stato utilizzato tanto bene. Sì, in trasmissione cerchiamo appunto di ripescare questa produzione fantascientifica ricchissima e di tirare fuori tecnologie. Alcune sono le grandi tecnologie, quelle per i viaggi nello spazio, ma a volte possono essere degli ammenicoli anche un po' strampalati. Non so se ti ricordi il neuralizzatore, quello di Men in Black, quell'oggettino con cui si andava in giro, con cui dimenticavi tutto? Esatto, è comodo quello. Sarebbe comodissimo, però è interessante domandarsi ma effettivamente si può manipolare la memoria? Forse non si riesce a sparaflesciare, come dicevano, sì, appunto nel film, le persone facendogli dimenticare quello che si desidera, ma sicuramente qualche farmaco che agisce sulla memoria breve. La cosa straordinaria è che faceva dimenticare solo gli ultimi minuti della vita, ma non tutta la vita. Loro per questo indossavano gli occhiali scuri, per evitare di essere sparaflesciati. Loro erano destinati a essere sottoposti e dimenticare tutta la parte della vita in cui avevano lavorato per questa organizzazione segreta. Loro sapevano di essere destinati a questo. Anche senti, abbastanza triste la cosa. Ho rivisto tra l'altro quel film recentemente, ma secondo te gli alieni sono tra di noi davvero? Come... Ma guarda, io non ci credo molto che siano tra di noi, però da qualche parte probabilmente sì. Ci sono. Tra l'altro bellissime le cose che diceva Nicola Nosengo, ti dico solo una cosa, sì. È vero che la posta pneumatica è sparita, ma per esempio a Malmo in Svezia c'è un quartiere in cui si usa c'è la spazzatura pneumatica, è una delle cose a cui si sta pensando, per far circolare la spazzatura senza, insomma, in modo semplice, con una differenziazione molto spinta, automatica, evitando di far circolare mezzi che occupano strade, eccetera, eccetera. Una possibilità è questa. E sono molte le tecnologie, anche in campo energetico, tecnologie moderne che in realtà sono vecchie tecnologie dimenticate che vengono ripescate, molte sono figurati dell'Ottocento. Ecco, dopo magari ce ne racconterai qualcun'altra. Questa della spazzatura pneumatica mi incuriosisce molto, spero solo che non vada a finire in mare poi quello che viene buttato. No, anzi, no. Beh, ma sono svedesi loro. Lo so, la mia era una battuta chiaramente, perché devi sempre adeguare la tecnologia al paese dove vivi, hai capito? Per capire cosa succederà. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di futuro immaginato, quello della fantascienza che poi diventa presente, oppure quello che si è dimenticato per sempre. Lo stiamo facendo con Maurizio Melis, conduttore e direttore di un nuovo programma di Radio 24 che si intitola Odissea 2011. Allora, Maurizio, ci stavi raccontando. Sì, vi stavo raccontando di qualche tecnologia, per riprendere un po' il discorso di Nosengo, proprio in campo energetico, che è stata ripescata di recente. Vi faccio un esempio che è anche dietro una storia abbastanza divertente. Una delle tecnologie che è stata ripescata di recente è il cosiddetto motore Stirling. È un motore ad aria compressa. La differenza principale rispetto al motore dell'automobile, per intenderci, è che non si brucia niente all'interno del motore, ma il calore, la fonte di calore è esterna. Insomma, questa macchina viene inventata da reverendo Stirling, che appunto era un prete, e si dilettava di ingegneria, aveva imparato dal padre la passione per l'ingegneria, perché la parrocchia nella quale lavorava vedeva un gran numero di decessi dovuti all'esplosione delle caldaie a vapore, e siamo agli inizi dell'era industriale, all'epoca gli acciai facevano schifo e ogni tanto queste caldaie a vapore esplodevano facendo dei danni mostruosi. Questo tizio si inventa questa macchina estremamente interessante, veramente innovativa come concezione, però nel frattempo, quando sta cominciando a diffondersi, saltano fuori gli acciai speciali, le caldaie a vapore non scoppiano più e questa tecnologia, il motore Stirling, scompare. E oggi viene ripescata perché il motore Stirling è un oggetto molto interessante, funziona come motore ma funziona anche come frigorifero, funziona anche come pompa di calore, la stessa macchina, almeno tre applicazioni, e nel campo dell'efficienza energetica, siccome è in grado di produrre lavoro, si dice così tecnicamente, con una fonte di calore qualsiasi, per esempio anche quella solare, si sta recuperando, ma questo è uno degli esempi che si possono fare. La tecnologia eolica in fondo non è che un recupero dei vecchi mulini a vento. Sì, anche la dinamo della bicicletta, voglio dire. Ma ce ne sono tantissime. Andremo tutti pedalando in casa per produrci energia, molto probabilmente sarà così. Li vedo già i tapirulan che muoviamo noi con i piedi e intanto... In qualche palestra ci sono. Anche su, voglio dire, il Topolino sono pieni di queste, di queste invenzioni. Sì, sì. Ma tu non so se hai mai provato a pedalare su una di quelle biciclette che producono energia. Si rende veramente conto di quanta energia consumiamo, perché uno proprio sputando sangue produce 150 watt, che è un ventesimo del nostro contatore elettrico di casa. Esatto, niente. Sputando sangue. Useremo tanti criceti allora che gireranno sulle loro ruote e poi da lì avremo gli animalisti che diranno: ah, usate criceti per questo. E quindi la storia è infinita, infatti. Allora, voglio ricordare il programma di Maurizio Melis, che va in onda il sabato alle 17, se non mi sbaglio, e poi in replica la domenica, ma non mi ricordo l'orario alle 8:30. Ecco, scusami. Alle 20:30 di conseguenza. Grazie Maurizio Melis, Odissea 2011. Ciao, ciao, ciao. Buona domenica. Andiamo avanti a parlare di futuro. Intanto arrivano sempre i vostri messaggi che chiaramente parlano di interesse per quello che succederà, per condivisione delle cose, collettività, di questo si parla. Però ci sono anche dei dati molto confortanti per una ricerca che è stata fatta su 2500 persone tra i 15 e i 74 anni in Italia. Soltanto il 50% degli intervistati ha dichiarato di essere molto attento all'ambiente, acquista prodotti ecologici, e il 60% opta per i grandi marchi che sono attenti a non sprecare, perché ormai anche grandi aziende sono molto attente da quel punto di vista. Mario Cianflone, buona domenica, ciao. Buona domenica, ciao. Mario Cianfroni è responsabile online del settore tecnologia e motori del Sole 24 Ore, e quindi parliamo proprio di motori. Abbiamo accennato anche prima con Maurizio Melis dove andremo a finire per quanto riguarda le automobili. Credo che ormai sia l'auto un po' la nostra seconda casa. L'auto è sicuramente la seconda casa. Tento a escludere che in futuro ce l'avremo con un motore a criceti, anche se sicuramente l'evoluzione sarà molto forte nell'ambito della protezione dell'ambiente. la macchina sta cambiando molto, è cambiata molto nei motori, sulla spinta di forte innovazione, adesso deve cambiare dentro, deve rendersi più semplice, più intuitiva e più contemporanea, permettermi il tempo, il termine. Sì. L'automobile fino adesso si è evoluta ai motori, si è evoluta la sicurezza moltissimo, siamo a un passo dalle auto che guidano da sole. Quello che è vecchio all'interno delle auto è il più delle volte l'interfaccia tra l'uomo e la macchina, tra chi guida, chi la abita, e i sistemi di bordo sono ancora concepiti con una logica antica, una logica ormai desueta che risale a molti molti anni fa, quando ormai siamo abituati a un display touch, a la possibilità di essere sempre connessi. Probabilmente la chiave di evoluzione dell'automobile è questa, un guscio che ci porta sicuramente in modo sicuro in viaggio, ci sposta dal punto A al punto B, ma che ci possa intrattenere, ci possa tenere in contatto e che abbia un feeling d'utilizzo simile a quello degli strumenti più moderni. Ecco Mario, secondo te ormai stanno facendo tanti studi per quanto riguarda le auto che riescono a guidare da sole, no? Che quindi non avranno più bisogno degli autista. E dovendo così ipotizzare un futuro in questo senso, quanto ci fideremo di queste macchine? Cioè, noi vivremo abbastanza per vederle o proprio no? Perché non ci fideremo, per esempio, secondo Ma te? Psicologicamente è difficile fidarsi, però se pensi che qualsiasi aereo di linea a terra e decolla e vola da solo, e magari un Airbus 380 da 400 tonnellate viene sollevato da un aeroporto, da un computer. Tu dici potrebbe no, forse appunto è perché il fatto noi così, sai, gli aerei li vediamo come qualcosa nell'aria, lo spazio è molto più ampio, le strade sono molto più strette e quindi la vediamo come qualcosa di molto più complicato, magari sicuramente anzi all'inizio avremo un insieme delle due cose, però pensi che il futuro sia un po' quello, che si vada verso le auto che guideranno da sole? Cioè comunque sia una tecnologia che continuerà a essere studiata e sviluppata o verrà a un certo punto abbandonata? In realtà le case automobilistiche sono molto serie in questo. Ci stanno studiando, una casa tedesca ha un grosso centro di ricerca in California dove l'obiettivo è esattamente quello, studiare la unmanned car, cioè l'automobile che guida da sola. Non ti dimenticare che anche nelle guerre moderne in Afghanistan gli americani la combattono da cielo con dei droni, certo, come gli Stati Uniti, quindi la tecnologia, cioè si tratta soltanto di renderla sicura. Come sempre la televisione bisogna renderla più economica, perché insomma sappiamo quanto si spende in un senso e quanto invece non si dovrebbe spendere nell'altro, cioè per la nostra quotidianità. Io ti devo salutare Mario Cianfrone, non per altro perché ti sentiamo veramente molto male, per cui tecnologia sì, ma quello che vanno migliorate sono le reti ancora dei cellulari, perché e quelle devono cambiare molto. Sì, non è colpa tua, cioè proprio la rete che a quanto pare ogni tanto ha ancora qualche problema. Vedete, parliamo di tecnologia e poi siamo ancora ancorati in qualche modo al passato, però ti ringrazio, è vero, grazie Mario Cianfrone, grazie, ti leggiamo ovviamente online, noi andremo avanti a parlare di tecnologia per capire anche che cosa avremo da fare, perché tra poco svuoteremo tutti i portafogli, non avremo più soldi, andremo in giro col qualcos'altro, ve lo racconterò dopo il GR. Il riposo del guerriero. Le 11:07, ancora buona domenica, da Stefano Gallarini continua il riposo del guerriero. Oggi parliamo del futuro che vorreste, così cerchiamo senza la sfera di cristallo di capire come sarà il nostro futuro e anche noi come dovremo comportarci. Tra i vostri messaggi leggo quello di Pietro di Milano che dice: bisognerebbe dare più spazio all'insegnamento di scienza e fisica e non soltanto a lettere, perché la conoscenza è importante per tutti gli argomenti dei quali stiamo parlando, ed è vero che bisogna conoscere, insomma, semplicemente decidere o pensare senza sapere non ha molto senso, bisogna sempre in effetti cercare di informarsi il più possibile. Vi ricordo il numero verde, perché alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito libreriarizzoli.it. Il primo indizio ve l'ho fatto ascoltare prima, comunque lo ascolterete più tardi, più indizi ascolterete più il premio si abbasserà, e la risposta come sempre può essere o non notizia notizia della settimana oppure un personaggio del passato, del presente o di fantasia o comunque qualcosa di molto conosciuto. Il numero verde, eccolo qui, prenotatevi, 800 24 00 24. Adesso aprite l'agenda invece, se ne avete una, che sia elettronica o cartacea, non importa, magari potete usare anche il calendario, prendete una penna e segnatevi questa data, il 21 giugno di quest'anno. Quindi non manca molto a questa giornata che si chiama No Cash Day. Geronimo Emili, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, hai organizzato tu il No Cash Day per questo 21 giugno. Allora, facciamo, prima di spiegare di cosa si tratta, cominciamo a dire che l'Italia cos'è, ultima nell'utilizzo di carte di credito? Ma poco ci manca, ecco, perché appunto, in realtà noi abbiamo una grandissima penetrazione di carte di credito, però una bassa attitudine all'uso. Cioè, per esempio, la spesa pro capite che l'italiano ha con la carta di credito, comunque con i sistemi di payment, si aggira intorno ai 27 euro, contro una cifra molto più alta che si attesta intorno ai 150, per esempio, di quella della Francia. Ecco, certo che, sai, andare con la carta di credito a comprare il pane, uno dice scomodo, poi per 30 centesimi o 50, 30 centesimi una volta, perché adesso compri due panini e un pezzo di focaccia, sono 2,50 euro, però il concetto è scomodo, anche perché poi c'è la percentuale che deve dare il negoziante, per cui ti guarda male, tutte queste cose qui. Sì, ma in realtà la strategia che tutti i protagonisti dei sistemi di pagamento stanno portando avanti è proprio quella rivolta ai micropagamenti. Ci sono circuiti che stanno portando sul mercato delle carte di credito o dei sistemi di pagamento che sono proprio inventati e creati per i pagamenti che si attestano dagli 0 ai 25 euro. Uno di questi circuiti Mastercard, per esempio, sta mettendo sul mercato, ha già messo sul mercato, ma si sta ampliando, una carta che si chiama proprio, una carta con una tecnologia che si chiama contactless, quindi senza contatto, che ti permette di pagare avvicinando la carta di credito al POS, alla macchinetta che serve per pagare, senza strisciarlo, senza quindi neanche firmare. E questo velocizza moltissimo il pagamento delle piccole somme, che in America o anche in Svezia ormai è di costume, come ecco, per il caffè, per la Coca-Cola. Si paga tutto in questo modo. Ecco, poi spieghiamo anche che ci sono i cellulari e la prossima generazione, molti avranno questa tecnologia che permetterà di pagare semplicemente passando il cellulare sul lettore, perché sarà collegato in poche parole al nostro conto, diciamo così, che è un po' lo stesso sistema di questa carta. Sì, lì ci sono diverse tecnologie. Una, per esempio, è questa che sta andando moltissimo in America, si chiama Square, ed è un piccolo affarino che si infila nell'iPhone e permette di strisciare la carta di credito, come se fosse un POS di un negozio. Sì. Square ha un grandissimo successo, ormai se ne sono venduti 500.000 di questi affarini e di questi lettori, e ormai viaggia al ritmo di più di 1 milione di euro di dollari di transazioni al mese. Però ecco, questa è una tecnologia che sta funzionando soltanto negli Stati Uniti. In Europa invece sono gli svedesi con iZettle, che è una cosa molto simile, ma che funziona anche con il Bancomat, ed è rivolto a circa 20 milioni di piccoli esercenti europei che utilizzano ancora il cash. L'ultima notizia invece che ha riempito le pagine dei giornali in questi giorni è il Google Wallet. Questa combinazione tra la tecnologia di Google, ancora in questo caso il circuito Mastercard, l'azienda Citi ed altre aziende di tecnologia che stanno mettendo in piedi questo sistema di pagamento assolutamente mobile, che ha come obiettivo quello di rivoluzionare la cultura del pagamento. Ecco, proprio di questo parliamo, perché insomma gli italiani hanno sempre preferito avere i soldi sotto il materasso, no? Poi man mano li ha portati in banca lentamente, e poi hanno cominciato con i bancomat, adesso finalmente le carte di credito, anche se non sono così, magari appunto ce l'hanno perché gli viene data eccetera, però non è tanto utilizzata. C'è la paura che venga utilizzata in modo fraudolento, ma anche se adesso siamo sinceri è molto più difficile di prima. E secondo te, Geronimo, andremo verso un futuro dove sarà obbligatorio non avere più dove sparirà proprio il contante? costante, non esisterà più la moneta cartacea, anche perché è uno spreco pazzesco, perché se leggiamo i numeri, produrre continuamente carta, moneta, è molto costoso. Sì, dalle ultime ricerche l'Europa spende circa 50 miliardi di euro nella gestione del denaro contante. Per gestione si intende la stampa, il trasporto, la sicurezza, il conteggio, l'impacchettamento, eccetera, eccetera. L'Italia ne spende 10 di questi 50 miliardi, quindi un quinto, ed è una cifra enorme. Parte di questi 10 miliardi di euro, che è un costo del sistema, poi si vanno inevitabilmente a ripercuotere sui costi del singolo cittadino che paga i conti correnti a caro prezzo. Noi sappiamo benissimo che il conto corrente in banca un po' ci costa. Il futuro è comunque quello che è stato descritto da diverse ricerche americane: nei prossimi 25 anni noi saremo sostanzialmente una sorta di carta di credito vivente. Ecco, una polemica, tra virgolette, o comunque un inciso, il fatto che le carte fanno perdere il controllo del denaro, dei soldi. Ma questo è un problema di cultura, scusate. E di gestione, ma certo. Noi fino adesso in trasmissione si è parlato di tecnologia, poi in realtà la tecnologia non è nient'altro che un modo per influenzare, come dire, in modo decisivo il benessere degli individui. L'e-payment è uno di quei sistemi per migliorare la qualità della vita. Il motivo per cui non attecchisce del tutto in alcuni paesi, parlo dell'Italia, perché poi in realtà in Svezia il 95% delle transazioni sono fatte con l'e-payment, la Svezia è un'eccellenza mondiale. In paesi come l'Italia non attecchisce perché abbiamo, come dire, un amore particolare per il nero, per l'evasione, perché come si dice, ormai il denaro contante è una cosa che piace solamente più alla malavita organizzata e alle ricchezze. È vero anche che i tassisti che accettano le carte di credito non sono così tanti, faccio un esempio. Non sono così tanti, in realtà hanno il POS, poi se insisti aprono il cruscotto, tirano fuori il POS, ecco. Ci mettono la batteria. Bravo, esatto, no. per cui diventa forse anche complicato per chi vuole utilizzare appunto la carta elettronica. Io sono uno di quelli, anche perché ritengo che andare in giro senza contanti sia molto più sicuro, no? Nel senso che non ce li hai e basta. Quindi. È molto più sicuro. Pensate che su 1800 rapine che sono in banca, che sono state registrate nel 2009, in Europa il 40% sono state fatte in Italia. E la rapina in banca si fa solamente se c'è del denaro da rubare. È chiaro, perché sennò i pezzi di plastica non servirebbero niente. Esatto. Allora, noi continuiamo a parlare con te, Geronimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico, perché parleremo di questa data che ho dato prima, il 21 giugno, e vediamo che cosa possiamo fare partendo proprio da lì. Il riposo del guerriero. Con Geronimo e Emili stiamo parlando di questo No Cash Day, adesso lo raccontiamo. E sono arrivano anche altri messaggi, Geronimo, che dicono cose che avevo già detto prima, cioè che la casa di credito ha commissioni e quindi un costo per l'esercente. Però abbiamo spiegato che esistono anche delle carte nuove, eccetera. Geronimo, a questo come rispondi per il costo dell'esercente, che a volte restio ad accettarla per quel motivo lì? Ma i costi sono assolutamente legati anche allo stato attuale delle cose. Nel momento in cui aumenta la penetrazione dell'uso di sistemi di pagamento elettronico è inevitabile che le commissioni scendano. Ci sono circuiti che hanno commissioni più alte e che il mercato penalizza. Adesso non facciamo nomi. Ma già il passato lo dice, c'era una carta che non accettava nessuno per quel motivo, ha dovuto adeguarsi ovviamente. Esatto. Certo. Poi ci sono i nuovi sistemi di pagamento elettronico legati al mobile o legati al web che in alcuni casi eliminano completamente le commissioni. Esatto. Quindi magari pagando una fee flat al sistema, ma questo permette anche di avere molto più traffico e molto più... Insomma, i sistemi ci sono, ci vuole soltanto la volontà. E come al solito, il 21 giugno cosa succederà? Il 21 giugno succede che presenteremo una ricerca su come gli italiani reagiscono all'introduzione di nuovi sistemi di pagamento e nuove tecnologie, soprattutto alla luce di quali sono gli aspetti negativi del denaro contante, perché quello che è stato fatto fino adesso dai protagonisti della moneta è quello di spiegare quali sono i vantaggi della moneta elettronica, ma forse non tutti conoscono gli aspetti negativi del denaro contante, che sono legati all'evasione, che sono legati all'aumento della criminalità organizzata, ai costi e anche all'igiene, perché noi sappiamo benissimo che il denaro contante passa di mano e in continuazione, e di conseguenza è un oggetto molto molto sporco. Ecco, anche le monete contraffatte ovviamente diminuirebbero, perché la Banca d'Italia, leggevo nel 2010, ha riconosciuto farsi oltre 72.000 banconote e il taglio da 20 euro è quello più contraffatto. Sì, dire che su questo dato va letto anche in un altro modo. In realtà le banconote e le monete false sono molte di più, ma il sistema per denunciare il possesso di una banconota falsa e quindi farsene dare una vera è talmente faraginoso che molte volte uno rinuncia. Ah, ecco, quindi va bene, insomma, vedremo cosa succederà, se nel futuro veramente le nostre tasche si svuoteranno, avremo semplicemente una cartina o neanche quella, basterà il cellulare e pagheremo solo così. Io credo che si andrà verso quello. In fondo ricordo quando per avere del contante bisognava farsi un assegno, autointestare e andare in banca, e oggi invece finalmente da molti anni ormai abbiamo il bancomat, però ci siamo dovuti arrivare e credo arriveremo anche a quello. Vedremo cosa accadrà e chi aderirà a questo 21 giugno. Vi ricordo il sito che è nocashday.org. Grazie Geronimo Emili, buona domenica. Grazie a voi. Grazie, ciao. Fables, buona giornata, ciao. Ciao Stefano, buongiorno. Autore di blog guerriglia.it, insomma anche internet ovviamente si muove in questo senso, si parla di futuro soprattutto lì con delle idee straordinarie, e io comincerei con quella che ha avuto la Svizzera, che ha usato internet in un modo, anzi andate a vedere il sito, c'è il video anche in italiano e c'è in tutte le lingue, nelle quattro lingue ovviamente, visto che la Svizzera le ha e le usa, beh, l'inglese internazionale, poi il tedesco, il francese e l'italiano. E perché, cosa hanno fatto Fables? Allora niente, no, il turismo svizzero ha lanciato questa campagna denominata Una vacanza senza internet. È un video, essenzialmente è un video in flash, quindi non parliamo per una volta di YouTube, parliamo di un sito dedicato con questo video in flash, dove si vedono due vecchietti di un paesino di montagna svizzero, tale Sebi e Paul, che camminando arrivano in una tavola calda, si siedono l'uno di fronte all'altro, aprono tutti e due il portatile, tutti e due si connettono a Facebook ed iniziano a dialogare tra loro attraverso la classica chat di Facebook. Ecco, che è quello che succede normalmente negli uffici. Tu vai negli uffici, non ci si parla tra colleghi, ma ci si scrive su Facebook. Questa è una cosa che io detesto personalmente, ma che vedo quotidianamente. Poi. Esattamente. E a un certo punto succede che, insomma, i due vecchietti iniziano ad interagire tra loro, a dialogare. A un certo punto uno di due fa l'altro: attenzione, ho trovato qualcuno di molto interessante su Facebook. Tutti e due si girano verso, diciamo, di te, invitandoti a connetterti attraverso il tuo account a questa applicazione. Una volta entrati nell'applicazione, che succede? Che tu diventi praticamente il protagonista del video. Perché? Perché sullo schermo di uno dei due vecchietti si vede l'home page del tuo profilo. Loro cominciano a commentare la tua attività su Facebook e iniziano a dire: oh, fammi un po' vedere quali sono le ultime foto che ha postato Fables, e si vede proprio la tua immagine, magari dell'ultima cosa che hai fatto. Poi ti dicono: non so, vediamo quanti amici ha, che interessi ha, però vediamo, ha 390 amici, però pochi interessi, com'è possibile? Strana questa persona. Concludono dicendo: oddio, ho trovato una cosa gravissima, non so, Fables passa 3 ore e mezzo al giorno attaccato a internet, certo. Esatto, non pensi che sia il caso di farti una bella vacanza senza internet? A quel punto, diciamo, si apre una sorta di concorsino dove tu, invitando molte persone a partecipare a questo gioco, hai la possibilità di vincere una vacanza. Ecco, io vi consiglio davvero di guardarlo, perché e credo che sia non so se è la prima volta, comunque la prima volta che vedo io, però dove c'è una vera interattività fra il filmato che è stato pre-registrato ovviamente e la realtà invece del vostro account di Facebook, per cui è straordinario vedere, sembra di assistere davvero a una situazione che sta accadendo in quel momento. Per l'indirizzo web basta andare su vacanzeoffline.it. Ecco, cercate lì e poi scegliete la vostra lingua e andate a vedere. E poi abbiamo ancora altri esempi di futuro che si vedrà. Sì, ecco, questo è addirittura il contrario di quello che dicevamo prima, cioè parlavamo di una vacanza senza internet, invece Greenpeace, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del votare sì al referendum contro il nucleare, che cosa ha fatto? Ha invece simulato quello che potrebbe essere un futuro, diciamo, post distruzione nucleare. In che senso? 7 ragazzi sono andati a vivere in un rifugio con unica forma di comunicazione internet, simulando che cosa? La classica vita dopo l'esplosione di una centrale nucleare, vale a dire rispettando le regole di rete produzione, vale a dire chiudersi in un luogo sicuro, sigillare i locali nel miglior modo possibile, arrestando i sistemi di ventilazione, ma soprattutto vivendo al chiuso, senza insalata, senza latte, formaggio, carne o pesce fresco. E rimarranno lì dentro per un mese, quindi dal 12-13 maggio fino al 12-13 giugno, comunicando quotidianamente quelle che sono le loro sensazioni, ma soprattutto quelli che sono i loro cambiamenti. Ecco, la domanda che ti viene... Sì, i cambiamenti tipo, scusami. Sì, no, ad esempio adesso stavo vedendo il video, uno degli ultimi video realizzati da una ragazza che diceva, ecco, dopo 14 giorni in cui non posso mangiare latte, carne, formaggio e cose del genere, ce la faccio comunque, non muoio di fame perché ho comunque sia lo scatolame a disposizione, però ho perso già 3 kg. La cosa più curiosa, sai che cos'è? Che sono pieni di fari alogeni e vorrei capire come riescono ad alimentare i fari alogeni e i computer, cioè con quale tipo di energia in quel momento. È solo una curiosità, però bisogna anche capire anche quello, cioè al di là di tutto non è una polemica, però come sempre, insomma, l'indirizzo vede sempre le cose solo da una parte, non dall'altra. Sì, perché... sicuramente un gesto secondo me dovrebbero prodursi loro, come abbiamo detto prima, proprio pedalando e cercando di ricaricare delle batterie. E con l'energia solare non possono perché sono sotto in un bunker, per cui utilizzando soltanto l'energia cinetica dei loro sforzi, così potrebbe essere un po' più realistico, no? Visto che in qualche modo devono produrre energia e o comunque recuperarla, altrimenti non possono usare niente di tutto quello che stanno facendo, telecamera compresa. E grazie Fable, scusami, grazie però bisogna dire cose poi come stanno, per farle sì, in un certo modo fino in fondo. Ecco, durante la notte pedalano per recuperare energia. Infatti lo devono fare, esatto, per quello, perché altrimenti come fanno ad andare avanti in questo modo? E questa è la cosa più intelligente, no? Cioè far capire poi che cosa bisogna praticamente fare. Questo è interessante. Comunque internet ovviamente dà sempre gli spunti per la discussione e questo ci deve essere, e soprattutto per l'informazione. Basta leggere molti siti e non soltanto uno. Fables, ti ringrazio, continua la tua ricerca, perché tanto ce ne saranno sempre di più di questo tipo di video, in un senso o nell'altro. Abbiamo visto uno assolutamente contro la rete, cioè cerchiamo di staccarci dalla rete per una settimana, e l'altro invece non facciamone a meno. blogguerriglia.com è il sito del blog di Fables, e a questo punto dobbiamo parlare di futuro anche per quanto riguarda l'enogastronomia. Il gastronauta. Sento che sento una bottiglia stappata, adesso mi viene sete, ovvio, già mi immagino. Davide, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vorrei delle bollicine qui davanti, ho sentito stappare e mi viene subito in mente il No, profumo. Io non ho stappato perché no, non lo so, tu no, ecco, però insomma. No, so. Io la mattina non bevo, non ma vorrei anch'io. Che qualcuno pensasse che io mi alzo la mattina immediatamente. Comincio a bere. Assolutamente, allora, non volevo dire questo. Allora, Davide, il futuro dell'enogastronomia come sarà secondo te? Che cosa vede la tua sfera di cristallo in cucina e sulla tavola per quanto riguarda il bere? Se tu me l'avessi chiesto 10 giorni fa ti avrei detto non so cosa, però credo che questo batterio scombusserà un po' il mondo, nel senso che la gente non si fiderà più di niente, quindi ci sarà molta, come posso dire, molta paura, e quindi molti cominceranno a mangiare quello che loro stesso producono. Non ti dico che si tornerà a una forma ancestrale di autoconsumo, però credo che sempre di più ci sarà questa, come posso dire, questa bramosia di scegliere e della sicurezza. Quindi credo che il nostro futuro cambierà. Per tornare, questo ti ho fatto una parentesi che non riguarda il bere, riguarda un po' tutto. Comunque parliamo di produzione, poi ci sono stati anche gli scandali per quanto riguarda il vino. Anche drammatici, devo dire, nell'86 in Italia, esatto, in particolar modo. Sì. No, voglio dirti che secondo me innanzitutto la gente comincerà a bere dei vini a più bassa gradazione, cioè oggi noi in Italia abbiamo ancora vini di alta gradazione che si racconti si dica, anzi io credo che molti vini che sulla bottiglia è scritto 13,5 sono 14, altri che sono 12,5 sono 13. Io credo che i produttori italiani, anche per essere molto competitivi nei mercati internazionali, dovranno cominciare a produrre dei vini a gradazione meno alta. Come sia possibile, se sia possibile, questo non lo so, però sicuramente questo sarà un primo passo. Poi l'altro passo sarà che saranno sempre vini meno impegnativi, cioè credo che i vini barricati, e io lo spero veramente, che finisca l'era definitivamente dei vini barricati, quelli molto complessi, molto strutturati. Questo perché è un po' la vita di ogni giorno che ci impone di essere molto più leggeri senza rinunciare a bere. Io credo che non è vero che bisogna rinunciare a bere, bere con moderazione, bere con attenzione, però non è giusto smettere di bere semplicemente perché c'è l'etilometro, semplicemente perché molti medici dicono qua e là storie, perché poi altri medici dicono altre storie, specialmente su quello che riguarda il colesterolo ed altro. Quindi io credo che si andrà verso un bere molto più sobrio, ma non sobrio per il consumatore, io credo che sia sobrio per il produttore. Cioè è tempo anche che i produttori si impegnino su questo, di dare dei vini, come dicevo, più semplici, meno complessi quindi e di più bassa gradazione, perché così la gente può bere anche un bicchiere e mezzo invece di un bicchiere. Che ristoranti sceglieremo secondo te? Saremo molto attenti alla qualità, per esempio, dove la cucina è a vista? Io credo che, la cucina a vista non è tutto, attenzione, io non credo che vedere cosa ti stanno manipolando uno sia sicuro, perché molte volte, insomma, non è che il consumatore se vede una carne che non è perfetta riesca a scoprirlo. È vero, ma sai, psicologicamente quando tu vedi, non so, un luogo pulito, ti faccio un esempio, allora se così sei già predisposto, poi è chiaro che questo non vuol dire altro. Certo che questo influirà. Ma io credo che anche qui andremo molto sulla semplicità, via i menù degustazione di 10 portate, un mangiare molto, molto più semplice. Io credo che due piatti e mezzo oggi siano giusti anche per capire la qualità di un ristorante. Si mangerà meno carne, probabilmente per tutti, diciamo, gli SOS che sono stati lanciati, secondo me molti di questi sono anche in malafede, perché non credo che il problema terribile sia solamente la carne, ma siano tante altre cose. E credo la cosa di cui bisogna stare più attenti è l'alimentazione di quello che viene prodotto, che noi mangiamo, cioè dei formaggi, quindi come sono alimentati le mucche, della carne, come sono alimentati gli animali. Ma si parte sempre del pesce, da lì. Del pesce dove sono stati pescati. Io credo che ci sarà anche molta più attenzione quando arrivano questi SOS che dicono che il tonno rosso è in via di estinzione, che lo sgombro ha dei problemi per una guerra tra l'Europa e il resto del mondo. Ecco, io credo che su questo ci sarà molto più attenzione. Quindi credo che non è vero che sarà più salutistico, sarà più attento il mangiare e la scelta dei ristoranti. E poi l'altra cosa, bisogna anche i ristoranti corretti, devono mettere in fondo cose sul gelato, devono mettere in fondo che il pesce crudo viene abbattuto. Insomma, ci devono essere tutta una serie, secondo me, di fiducia su quello che credo che ci sarà più attenzione proprio da parte dei consumatori da questo punto di vista. I dati ormai dicono che la metà degli italiani è particolarmente attenta a questi aspetti e quindi poi dovranno anche adeguarsi i ristoratori e i produttori in generale. Permetti una battuta finale? Sì, certo, come no. L'uomo non è ciò che mangia, come tutti continuano a scrivere. E Feuerbach, la famosa espressione di Feuerbach, l'uomo è ciò che immagina di mangiare, perché oggi purtroppo questa è la realtà. Grazie Davide Paolini, vi lascio la riflessione, la frase che ha appena pronunciato, e poi sabato prossimo con il gastronauta e domenica prossima con il wine bar. Grazie ancora Davide, buona domenica. Ciao. Tra poco giocheremo, ci sono 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it, il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. 11:38 minuti, scatta il cronometro, 24 minuti di tempo. Un mistero in 24 minuti. Per risolvere il mistero, la risposta può essere una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Per arrivarci dovrete ascoltare gli indizi musicali. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il primo indizio l'ho pescato da un disco di Paolo Conte, si intitola Razzmatazz, e questa canzone mi piaceva in modo particolare e devo dire che ha molto a che fare con la soluzione di questa settimana. ed efficace, questo è il primo indizio, si intitola Pasta Diva. Giulia da Modena, buongiorno. Buongiorno. Allora, posso avere un nuovo indizio? Come no, certo che puoi. Questo intanto era Pasta Diva. Sì. Ecco, perché no, è importante. Pasta Diva Paolo Conte. Sì. Il secondo indizio porta il premio a 500 euro. Giulia, tu così sei entrata direttissima a chiedere subito un secondo indizio, sì. Proprio presa dall'ansia, non lo so. Intanto buona domenica, Giulia. Grazie, altrettanto. Allora, questa è una canzone famosissima, l'avrei sentita tantissime volte, un sì. Grande David Bowie che ci racconta di eroi, che tutti possiamo essere eroi una volta nella nostra vita. Heroes, infatti, è il titolo e lui è David Bowie. Allora, Giulia, per te una risposta che vale 500 euro. Dunque, allora, rimango sulla primo indizio. La prima idea che avevo sì. Avuto. Cioè, gli USA che dicono addio alla piramide alimentare. Eccoci qua. Giulia, grazie per la risposta. Prego. E complimenti per aver fatto un'associazione. E come sai, scopriremo se la tua risposta è quella giusta soltanto al 24esimo minuto. A più tardi. Ciao Giulia, grazie. Arrivederci, ciao. 800 24 00 24, Alfredo da Verona. Pronto? Alfredo, ciao. Buongiorno. Verona, mi vengono in mente le opere e anche il primo indizio, così era un po' operistico, no? Sì. Come suono. Tra l'altro Razzmatazz, così, l'album che Paolo Conte incise qualche anno fa, era proprio un progetto di questo tipo, nel senso che avrebbe dovuto essere un musical vero e proprio, un'opera. Allora, Alfredo, due indizi li abbiamo scoperti, 500 euro ci sono per te, che cosa vuoi fare? È un altro indizio. Vuoi ascoltare un altro indizio? E quindi scendiamo a 300 euro. Arriva Romeo trafelato e le grida il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va e Cenerentola che spazza la strada in via della povertà. Grande successo per Fabrizio De André, questa via della povertà. Alfredo, penso che tu questa canzone la conosca. Io ti lascio pensare gli aggiornamenti sul traffico e poi Alfredo di Verona darà la sua risposta. Un mistero in 24 minuti. Alfredo, ti abbiamo dato veramente tanti minuti per pensare. Hai pensato? Sì. L'ultima cosa che mi è venuta in mente è le statistiche dell'Istat sulla povertà. Mica belle. Grazie Alfredo. Prego. Buona giornata, grazie Alfredo. Magari la sua risposta giusta sarebbero 300 euro. Enrico da Modena, buona giornata. Buongiorno. Ciao Enrico. Allora, noi abbiamo tre indizi già scoperti. Tu vuoi fermarti qui o vuoi ascoltare altri indizi? Ma il premio scende. No, io avevo pensato. Aspetta. Al caso. Mm. Vuoi ascoltare? Il signore francese. Sì, vuoi ascoltare altri indizi o no? Intanto. No, questa... no. Ecco, no. Allora, sentiamo, no. Sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Allora. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Eccoli qua, Pasta Diva, Paolo Conte, Heroes, David Bowie e via della povertà, Fabrizio De André. Allora Enrico, tre indizi li abbiamo scoperti. Ah, niente, subito avevo pensato al caso di quell'irrigente Barilla che era stato assalito con Pasta Diva in Francia. Poi invece sì, ho pensato anch'io alle statistiche Istat sulla povertà. E quindi cosa facciamo? Le statistiche Istat sono già state date e come risposta? Diciamo quello della Barilla. Va bene, per forza. Grazie Enrico, buona grazie giornata. Mille. Ciao, buona grazie. Giornata. Sarebbero 300 euro. Fabrizia da Verona ancora. Pronto? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Tutto insieme. Fabrizia, buongiorno. Buongiorno Stefano. Vedevi Alfredo dalla finestra per caso, no? No, io abito in provincia. Comunque volevo dire che sono molto contenta di essere in linea con voi, perché la radio l'ascolto durante tutta la settimana e finalmente sono riuscita anche a mettermi in contatto per partecipare al gioco, insomma, ecco. Allora, grazie Fabrizia. Chissà se tu hai anche una risposta pronta oppure vuoi ascoltare un altro indizio. Io l'ho avuta subito durante la settimana quando ho sentito il primo indizio, è una risposta di parte praticamente. Ho pensato alla manifestazione che si è svolta il 1 giugno, mi pare, all'Arena di Verona con Antonella Clerici e Gianni Morandi per all'inizio della stagione lirica, per unire, diciamo, la musica classica e la musica rock. Grazie. La canzone poi mi ha portato un po' fuori strada, ma comunque dico questa così perché il tuo cuore ti ha detto così, è da Veronese, certo. Giustamente, grazie poi, Fabrizia. L'importante era anche partecipare un po' al gioco, insomma, dai. E per noi lo è. Ciao Fabrizia. Grazie. Ciao, buona grazie. Giornata. Benedetto da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, Benedetto. Sì. Cerchiamo di dir bene anche la soluzione. Secondo me la notizia è di Bruno, un cuoco diventato eroe con un piatto di pasta. L'ho letto su internet, non lo so. Io non posso dirti niente, Benedetto, però. Ciao Benedetto, grazie. Ciao. Buona giornata, ciao. Mi fa ridere, non posso aggiungere nulla. Francesca da Parma, buongiorno. Buongiorno. Hai la radio troppo alta, dovresti spegnerla per cortesia. Francesca, è creduta insieme alla radio. Dovevi solo spegnere la radio, Francesca, ma potevi parlare tranquillamente al telefono. Francesca non c'è. Roberto, dalla provincia di Milano. Buongiorno. Ciao Roberto, sì, lo so, ti abbiamo chiamato così all'improvviso, perché Francesco non la sentivamo più. 800 24 00 24. Allora, Roberto, abbiamo scoperto 3 indizi. Sì. Cosa vuoi fare? Io provo a dare la risposta. Allora, aspetta, visto che anche tu vuoi dare la risposta, ti facciamo riascoltare i 3 indizi che abbiamo già scoperto. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Eccoli qui Roberto, allora Pasta Diva, Paolo Conte, Heroes, David Bowie, via della povertà, Fabrizio De André. Sì. Dunque, no, io pensavo a il fatto della settimana di Antonio Conte. Sì. Ex giocatore della Juventus. Che torna, cioè va ad allenare la Juventus il prossimo campionato. Grazie. Grazie. Confronto tutte le altre risposte, una risposta un po' così. Assolutamente, però, ma potrebbe anche essere, anche tu hai messo Conte, no? Come Conte. Esatto. Come Iro, perché è sempre stato considerato un eroe quando giocava nella Juventus. Certo. E poi Di André che parla di questa signora che ultimamente è un po' povera. I risultati potrebbe essere grazie, lo dico da milanista non lo dico da grazie Roberto, ciao. Prego, buona grazie. Giornata, ciao. Giuseppe della provincia di Bari. Giuseppe, pronto? Sì, buongiorno. Eccoci Giuseppe, allora 3 indizi li abbiamo scoperti, tu cosa vuoi fare? Io provo a dare la risposta. Anche tu, niente, voi non siete lì sempre, oltre il terzo indizio è difficile andare, però la risposta, ti dico una cosa Giuseppe, nessuno ha ancora dato la risposta giusta, non abbiamo ancora una risposta giusta. Speriamo che la do io allora. Allora io direi di sì. Senti, io ho pensato all'astronauta italiano che è rientrato dalla stazione spaziale. Grazie Giuseppe, ma purtroppo io non posso dirti che questa è la risposta giusta. Mi spiace. Ciao Giuseppe. Sì, ciao. Grazie, ciao. Niente da fare, è scaduto anche il tempo. E devo dire che c'è stato un amico che ha parlato di questo cuoco che è diventato un eroe con un piatto di pasta. In qualche modo, però, non era la risposta giusta. Allora, forse non l'avete letta, era una notizia di qualche giorno fa, ma una ricca manager di Hong Kong si è travestita da Superwoman e ha cominciato a distribuire pasta e altri beni ai più poveri cinesi. È andata in strada e ha cominciato a distribuire, insomma, le sue ricchezze. E la cosa curiosa, beh, via dalla povertà, appunto, perché è andata nelle strade più povere di Hong Kong, Heroes, perché è stata veramente un'eroina e nessuno sa di chi si tratti, perché è completamente travestita come proprio una vera eroina dei fumetti. Pasta Diva, perché la cosa che ha distribuito di più era appunto la pasta. Ci sarebbero state poi altri indizi che vi avrebbero aiutato e forse un po' con internet la soluzione l'avreste anche potuta trovare. Mi dispiace, anche oggi niente da fare, vediamo se la settimana prossima riusciremo. Di solito è così, quando non diamo premi per un po', poi immancabilmente qualcuno si porta a casa tutti i 1.000 euro. Vedremo la settimana prossima. Grazie alla redazione Giorgio De Luca, all'assistenza di Margherita Frarelli, Pietro Lacorte in regia e a voi naturalmente. Ci sentiamo domenica prossima, puntuali come sempre alle 10 con il riposo del guerriero. Vi ricordo anche l'appuntamento del sabato all'interno del 2024 alle 15:30 con l'appuntamento dedicato ai videogiochi. Buona domenica da Stefano Gallarini.